a quel punto la cosa non degenera solo perché c'è la tovaglia dei puffi, quella che usavo da bambino, che era l'ultima rimasta. Le altre sono a lavare. E quando c'è la tovaglia dei puffi, come si fa a litigare davvero, no? È ridicolo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07 di un mercoledì 6 di aprile del 2011. Questa è Radio 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Nonostante tutto. Lo stereotipo. Lo stereotipo nell'uso moderno è la visione semplificata e largamente condivisa su un luogo, un oggetto, un avvenimento o un gruppo riconoscibile di persone, tutte quante accomunate da certe caratteristiche o da certe qualità. Gli stereotipi di solito riguardano cose, riguardano idee, riguardano comportamenti, aree geografiche, ma soprattutto riguardano le persone. Quello che facciamo, il modo in cui parliamo, il paese in cui viviamo o da cui veniamo, ma anche il taglio dei capelli oppure gli abiti che indossiamo, lanciano delle immagini precostituite nel nostro interlocutore. E spesso la fatica più grande che noi dobbiamo fare è semplicemente rompere quell'idea che gli altri si sono fatti di noi, proprio in base a quei luoghi comuni. La puntata di oggi è dedicata proprio a voi che siete l'antistereotipo, cioè che sembrate una cosa e siete un'altra. Voi che avete i rasta e fate gli impiegati. Voi che siete sardi ma giocate a basket. Voi che siete di Voghera e non fate le casalinghe. Voi che siete un nerd ma con le donne ci sapete fare. Voi che siete un politico e siete onesto. Insomma, se siete la cosa più lontana dall'immagine che di solito trasmette che appartiene alla vostra categoria professionale, alla vostra regione o alla vostra età, quella di oggi è la puntata per voi. Voi che siete l'antistereotipo. E poi, scusate se insisto, ma di questo film che gliene importa alla gente comune, semplice, che lavora? A un povero bracciante lucano, a un pastore abruzzese, a una modesta casalinga di Treviso. Che gliene importa di queste tematiche intellettualistiche, solitarie, masturbatorie? Non si parla di racconti, si parla proprio di essere una cosa che è diversa da quella che gli altri si aspettano da noi, proprio in base a questi luoghi comuni, agli stereotipi, proprio come mi scrivono tutti quelli che mi scrivono su Matteo Caccia, io sono qui, profilo Facebook, Lorenzo, sono di Casei e sono intollerante al formaggio, perché Casei Gerola, credo, dove sono i caseifici, da cui caseifici. Sto dicendo cose a caso, ovviamente, però sicuramente qualcuno lo sa meglio di me. Simone, sono un italiano a Londra e tutti si stupiscono quando dico che non mi piace il formaggio. E due, Ross, lavoro in giacca e cravatta ma sono un creativo. Giulia, già tremo al pensiero. Giulia, sono donna e a detta degli altri so guidare bene. Bravi, esattamente questo che intendevo. Paola, sono bresciana e non voto Lega. Gustavo, sono ingegnere e ogni tanto ho torto. Gustavo, sei già il mio preferito, perché gli ingegneri hanno comunque sempre ragione. Non hanno sempre ragione, ma non hanno quasi mai torto. Marco, ho una ditta di impianti elettrici, ma sono musicista. Olof. Vabbè, questo non mi ha inventato. Ah no, forse no, perché scrive: sono islandese ma soffro il freddo. Quindi non è inventato. Olof Porsteinstotit. Si chiama così. Non so, andate a vederla su Facebook, c'è tutto, c'è anche la sua foto. Elisabetta, no. Fabio, ho 4 certificazioni informatiche e faccio il fruttivendolo. Alessandro, faccio il camionista ma sono un buon runner. Cosa vuol dire questo esattamente? Boh, vabbè, questo non è uno stereotipo. Elisabetta, questo è uno stereotipo. Sono alta 1,80 e non ho mai giocato a basket. 800240024 3492386666. Oggi vorrei proprio tirarne su, ma a mazzi, come si dice. Prima di tirare su a mazzi, però vorrei tornare su quella cosa che facciamo tutti i giorni, perché Viola tutti i giorni piglia la foto della giornata, la stampa, me la dà, non mi dice niente e io racconto la foto, che poi è l'io sono qui, delle persone che ascoltano il programma e vogliono partecipare con una foto raccontandomi dove si trovano in quel momento. Me ne è arrivata una poco prima di arrivare in onda, e quindi Viola mi perdonerai, non te l'ho nemmeno segnalata, l'ho stampata direttamente io, perché è proprio un esempio tipico di come in questo caso la protagonista della foto e la protagonista della mail che mi è arrivata non sia in un posto fisico, ma sia in una specie di limbo. In questo caso è un limbo di attesa per un concorso a cui ha partecipato. Ciao Matteo, ho partecipato ad un bando di gara pubblica per la gestione dei servizi aerei della linea Isola d'Elba, Pisa e Firenze. Cioè, fondamentalmente questa persona lavora in una società di servizi aerei, quindi che fanno voli aerei, una compagnia aerea credo, una roba simile, che fanno la linea tra l'isola d'Elba, Pisa, l'isola d'Elba e Firenze. Rappresento una delle tre compagnie aeree che partecipano a questo concorso. Io lo faccio col cuore perché amo l'Elba, gli altri lo fanno per soldi, vabbè chi lo sa, magari anche gli altri lo fanno per il cuore, cosa ne sai, io invece devo vincere. Nella foto che ti invio sto chiudendo le buste dell'offerta con la cera lacca, come da regolamento. Io sono qui, Dina. Dopo la carichiamo questa foto, poi sicuramente se la sentiamo anche dal vivo Dina nei prossimi giorni. Dina è fisicamente in una casa, credo, perché intorno ci sono divani, c'è una libreria, però lei è esattamente lì dove ha le buste, dove tiene queste buste, dove c'è scritto bando di concorso, documenti, busta A documenti, busta B offerta, credo, o richiesta. E nell'altra foto invece lei con un signore che immagino sia suo marito, cosa ne so, è un signore, perché devo dire che suo marito, magari è il suo capo. Grazie Rudy. Sta mettendo la cera lacca infuocata sulle buste. Lei è qui. Questo è semplicemente per ricordarvi che non serve una foto di un luogo, non serve la foto della vostra scrivania, anche se mi piace particolarmente, devo dire, la vostra scrivania. Non serve la foto del vostro ufficio, basta un luogo in cui vi trovate. Proprio anche se è un luogo di mezzo, anche se è un luogo che non ha un posto. Io sono qui, @radio24.it, oppure Matteo Caccia, io sono qui, sul profilo Facebook, che è la fanpage. Se cliccate su mi piace, entrate nel fantastico mondo del programma. 800240024 349-238-6666, solo se siete un antistereotipo vivente. Bruno: sono calabrese e non sono un dranghettista, mia moglie è colombiana e non è narcotrafficante. Guarda Bruno, preciso. No, Francesca no. Simona: provengo da una famiglia sarda ma non mi piace per niente l'agnello. Lara: sono vicentina, non mi piace il baccalà. Alice: sono romana e mi piace lavorare. Alice, tu non devi scrivermi ste robe. Sono donna e so cambiare una ruota, so usare un computer e so montare un mobile e so anche guidare. Simone: sono un export manager, tutto il giorno in giacca e cravatta, ma nel tempo libero faccio yoga, giro con i capelli strappati, e con i capelli, buonanotte, con i jeans strappati, sono spesso al parco sdraiato sull'erba a fare niente. Loretta: sono donna e capisco di calcio più di Leonardo. 800240024 349-238-6666. Tutti siamo degli stereotipi e tutti siamo antistereotipi. Nel mio caso, l'antistereotipo è Samir. Ieri pomeriggio, dopo la diretta, Natalie mi ha chiamato e mi ha detto che Samir era sparito. Non è più in casa, non so dov'è. Ecco, potrebbe bastare questo per raccontare la mia giornata di ieri, di dov'ero e di come stavo. Perché quella chiamata mi aveva tolto un grande peso sullo stomaco. Per me era una splendida notizia, solo che Natalie non la pensava così. Lei era molto preoccupata. Sulla via verso casa ho pensato a tutte le possibilità. Tipo, Samir poteva essere tornato a casa sua a combattere la sua guerra, se era una guerra. Oppure poteva essere partito per la Germania, dove aveva un parente, senza dire nulla, perché boh, perché in Tunisia si fa così. Oppure era andato a prendere le sigarette. Ecco, ammetto che la terza era la peggiore delle ipotesi. Mi stava antipatico Samir. Insomma, a volte mi sembrava semplicemente un po' di troppo. Natalie mi aspettava a casa disperata. Aveva lei la responsabilità del tunisino e non era stata capace di tenerlo fermo, di tenerlo in casa. E fuori casa, dovunque fosse, lui correva dei pericoli. Samir non aveva i documenti necessari per rimanere in Italia, anzi, secondo le leggi vigenti, era passibile di arresto. Perché chi non ha un permesso di soggiorno, chi è entrato clandestinamente nel paese, può essere arrestato e condannato fino a 6 mesi di carcere. Io questo non lo sapevo, ma lui sì. Solo che non se ne era fatta una ragione, perché è un orgoglioso, questo secondo Natalie, e non voleva accettare di vivere come un recluso. È uno che conosce i diritti umani, mi dice lei. L'ipotesi era che non fosse scappato, ma solo uscito, per farsi un giro. In effetti non era una bella idea andare a passeggio senza documenti. Ed era vero che Samir non aveva fatto nulla per meritare la prigione. E quindi è andata a finire che mi sono preoccupato pure io, perché mi è toccato montare in Vespa e andare a cercarlo. Ora, io Samir non è che lo riconoscerei tra mille, quindi ero dubbioso sul fatto che l'avrei beccato tra la gente. Solo che per fortuna avevo visto che lui si era preso un mio Kiwi rosso, una roba molto appariscente, roba che se lo becco mi faccio pure pagare il noleggio. Per cui, per le strade, non sarebbe stato difficile trovarlo. Anche se stava per fare buio, anche se non avevo nessuna idea di dove andare a cercarlo, anche se stava per iniziare la partita. Prova a immaginare così, dove possa essere. Tipo, magari potrebbe essere un maniaco del sesso, allora vado nelle strade più battute, oppure un turista curioso, allora mi faccio tutte le chiese, tutti i monumenti principali. Intanto passano le ore e un po' mi diverto a girare la città, un po' no invece, un po' mi rompo le palle, vorrei essere su una spiaggia al sole o magari a casa in poltrona davanti alla televisione, piuttosto che in giro in motorino al buio in luoghi malfamati. Insomma, l'ho cercato tutta la sera e non l'ho trovato. Alle 2 ho deciso che basta, torno a casa, non l'ho trovato. E mi sentivo un po' sconfitto mentre entravo in casa mia. Natalie invece era sorridente e il mio kiwi era sull'attaccapanni. Ho appoggiato il casco e ho sentito lo sciacquone del cesso. Samir era tornato. Not a shirt on my back, not a penny on my name. But I can't go home this way, this way, no, no, this way. And I can't go home this way. Toh, guarda chi c'è, Cappuccetto Rosso. L'ho salutato così Samir quando è uscito dal bagno, asciugandosi le mani ancora una volta nel mio accappatoio e avendo le mie ciabatte da piscina ai piedi. Samir è una persona molto attenta all'igiene. Mi dice che gli spiace che io fossi andato in giro a cercarlo, che doveva avvertire che andava a fare due passi. Si scusa molto e mi fa anche un inchino. E io me ne frego del suo inchino perché sono 5 ore che sono in giro con la Vespa e ho fatto pure il pieno. E Milano, sì, è pure bella da girare la notte, ma mica tanto se sei preoccupato per uno che se lo prendono lo sbattono in galera. Ecco, lì Samir un po' si irrigidisce. Mi dice che lui non ha fatto niente di sbagliato e che è un uomo libero e che ha attraversato un mare per scappare da un dittatore, che può andare in giro dove vuole. E allora io guardo Natalie, che è un po' in imbarazzo, ma più che altro è felice di non dover telefonare all'ONG e dire che se l'ha persa il clandestino. E allora ci sediamo a tavola per rimanere calmi e io gli dico: Samir, forse tu non hai capito. Qui, se ti prendono, ti mettono in prigione. E magari lo fanno anche con me, per averti tenuto qui come ospite. Ma stai fuori. E la cosa non degenera solo perché la tovaglia è quella dei puffi, quella che usavo da bambino e che era l'ultima rimasta perché le altre erano da lavare. E quando c'è la tovaglia dei puffi, come fai a litigare? È ridicolo. Però siamo tutti e due molto nervosi e lui insiste. E io gli dico che può recitarmi tutti i diritti umani del mondo, ma se in un posto c'è una legge, c'è poco da fare, la devi rispettare. E che chi si crede di essere? Lui, eh? Lui alza la voce, io gli lancio contro un tovagliolo con sopra puffetta e tanti cuoricini. E lui mi dice che se voleva uno stato totalitario se ne stava dov'era. E io gli dico che forse faceva bene a starsene dov'era, che qui mica è il paese del Bengodi. E cosa si credeva, che il mondo fosse lì ad aspettare lui per dargli colazione, pranzo, cena e un letto dove dormire? Allora lui mi guarda e mi dice che io devo nascere in Tunisia per capire. E io gli dico che mi spiace, sono nato qui e capisco lo stesso. E la cosa prende una brutta piega, perché diventiamo irragionevoli e cominciamo a parlare per stereotipi. E lui mi dice cose tipo: sì, perché voi cristiani. Io gli rispondo ovviamente con: vabbè, invece voi musulmani. E io sono così nervoso che prendo il tovagliolo con il grande puffo e lo annodo stretto stretto. E dico tra me e me che se uno è scemo in tutti i continenti. E Natalie si arrabbia. E questa è veramente la goccia che fa traboccare il vaso. E allora dico a Samir: facciamo così, caro uomo libero. Da domani tu sei libero di andartene fuori di qui. E quando incontri un poliziotto tu recitagli tutta la dichiarazione dei diritti dell'uomo e poi vediamo cosa ti risponde. Perché alla fine il mondo ha le sue regole, che magari non piacciono nemmeno a me, però io non posso fare finta che non ci siano. Non ne sono capace. E se qualcuno sa come si fa, sono pronto a imparare. Da domani però. sto pezzo finiva in continuazione, non capivo. Radio 24 80024 0024 per chiamare in diretta. Vi ricordo anche che, visto che lo chiedete spesso, tutti i brani sono sulla pagina di Radio 24, alla pagina, sul sito di Radio 24, alla pagina Io Sono Qui. Ci sono, c'è la foto del giorno, ci sono i brani che mettiamo, i due brani che mettiamo in diretta, e c'è anche qualcos'altro. C'è un pezzo, credo, un pezzo della puntata. Possibile, giusto? C'è un pezzettino, insomma, c'è un riferimento alla puntata. Questo è sul sito della radio e poi c'è il profilo Facebook. Visto che tutti lo chiedono in continuazione, Tiziano Bonini farà presto un regalo a tutti quanti, che è mettere tutti i nomi, giusto Tiziano, di tutte le basi che usiamo. Quello lo mettiamo sul profilo Facebook, Matteo Caccia, Io Sono Qui. Torniamo agli stereotipi, anzi agli antistereotipi. Ad esempio, faccio parte di un gruppo di bikers, sai, quelli brutti, sporchi e cattivi? Sì, quelli che quando li incontri un po' ti fanno paura. Siamo abbastanza brutti, sporchi quanto basta, ma cattivi per niente. Michele: faccio il barman in una discoteca, ma non sopporto il 99% dei clienti, che non è capace di divertirsi e se non è di fuori. Sono Lina, sono napoletana e ho placcato un ladro che scappava con una borsa. Quale, però non capisco quale sarebbe lo stereotipo, Lina, di tutto ciò che... Vabbè. Sono un nuovo italiano e amo profondamente l'Italia. Radvan: Matteo, sono un metallaro con i capelli corti che adora vestirsi in giacca e cravatta. Sono andato a un concerto degli Iron Maiden in camicia. Maurizio, e qui è orgoglio metallo. Sono sardo ma tifo Napoli. Sono romano e odio i cafoni. Sono donna, mi piace mangiare. Vabbè, questo, guarda, io credo che alle donne piaccia mangiare molto di più di quanto non dicano. Sono figlia unica ma non sono viziata. Ho 24 anni, sono un dentista ma adoro tagliare la legna e allevare le capre. Sono di Vicenza ma mi piacciono i gatti. Potrei andare avanti tutto il giorno. Il mio preferito però è quello di Loris, che mi scrive: sono un artigiano e pago le tasse. E noi ci crediamo, Lor, noi ci fidiamo del tuo SMS, ok? 80024 0024. Andiamo. Laura, dalla provincia di Latina. Pronto, Laura? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie, tutto bene. Senti, tu sei magrissima. Senti, allora, sei magrissima. Sì, e sei magrissima, insomma, sono magra, 55, sportiva, corro, eccetera. Quanti anni c'hai, Laura? 52. Sì, negozio per taglie forti, per taglie grandi, per donne morbide, e ogni volta che le signore entrano dentro dico: ma tu, ma come così magrissima hai aperto un negozio così per le taglie forti? Senti, vanno molto le taglie forti in questo momento? Sì, vanno, e ahimè non ci sono abbastanza negozi, perché tutte le cose che ci sono poi sono cose obsolete, sono quelle cose brutte. Meglio per, meglio per te a questo punto, direi, Laura. Certo, io invece propongo... Guarda, Laura, scusami, ti devo salutare perché ti sento malissimo, però è arrivata, sei secca secca e vendi abiti per ciccione, più o meno, no? Giusto, così, taglie forti. Sì, per taglie morbide. Vabbè, morbide. Taglie morbide, morbide, perfette. Ciao Laura, grazie. Ciao. Ciao, andiamo da Marco, Reggio Emilia. Pronto, Marco? Ciao, Matteo. Ciao, tu sei uno psicoterapeuta. Esattamente, ce l'avamo sentiti certo, qualche mese fa. Ma mi ricordo bene, Marco, come bene. No? I tatuaggi sono ormai aumentati. Cioè, quanti tatuaggi hai addosso, Marco, adesso? Adesso sono 23 i tatuaggi. Come mi prendono in giro i miei colleghi, i dottori, sono arrivati al limite della camicia, quindi al limite del colletto e dei polsini. Senti, dimmi qual è l'ultimo che hai fatto. Ah, è stato un bellissimo pirata stile rockabilly, con tanto di bandana, sciabole e occhio bendato. Senti, ma i pazienti si fidano di uno psicoterapeuta così? Ma sai, come ti dicevo, i tatuaggi sono al limite della camicia, okay. Quindi sono invisibili. Ah, okay. Ma l'episodio bello è stato una settimana fa circa, quando sono andato a lavorare in bermuda e maglietta per poi andarmi a cambiare nel nostro spogliatoio. Alla fine della giornata mi sono ricambiato e ho incontrato uno dei miei pazienti in autobus. Okay, io avevo il mio cappellino, gli occhiali da sole, la magliettina e tutti i miei bei tatuaggi in vista. Sì. Il paziente non mi ha riconosciuto, credo, ma si è quasi spaventato allontanandosi, andando dall'altra parte dell'autobus. Marco, ti ringrazio molto, buona giornata, ciao, alla prossima. Te, ciao. L'ultima, dai, ce la facciamo l'ultima, vero? Andiamo da Lorenzo, provincia di Firenze. Pronto, Lorenzo? Ciao Matteo, buonasera. Ciao, tu sei un commerciante, sei molto cinico ma sei un poeta. Sono cinico perché sì, sembro molto distaccato e molto diciamo venale, ecco, a volte. Scusami, ma lo stereotipo sarebbe che il commerciante in teoria è... Lo è venale, no, è già così, e questo è il, questa è la figura sua del commerciante, che... la figura mia, mi piace molto calarmi. Che cosa fai? E invece no, suono, ho 40 anni, suono in un gruppo samba reggae, faccio anche la marchetta, si chiama Jaguaribe, siamo scatenati, facciamo parlare la gente. Senti, dici un titolo della tua canzone. Voglio farmi i cazzi miei. Ciao Lorenzo, grazie mille. Adesso la borsa e poi, se sopravviviamo, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella foto di oggi siamo in una vigna, o in un vigneto. Boh. Ci risponderanno a Vinitaly sicuramente. Una, è una vigna in cui credo siano state sono completamente spogli gli alberi e quindi sono appena stati tagliati. Il cielo è grigio, però potrebbe essere un mese fa, tipo sì, è sicuramente un mese fa, nel senso che è primavera perché ci sono dei fiorellini azzurri nell'erba. La cosa interessante della foto è che non c'è il protagonista che l'ha scattata, però c'è nella parte sinistra un guanto che spunta. Non capisco se l'ha fatto di proposito oppure gli è scappata la mano nell'obiettivo, ed è un bel guantone in lana con una parte in gomma proprio di uno che lavora con le mani. Stefano Calosso, 33 anni. Ho appena finito di potare il vigneto più vecchio della mia famiglia, ceppi di Barbera piantati in acque terme più di 60 anni fa. Prima mio nonno, poi mio padre. Adesso tocca a me. Lungo le stagioni, tutti i giorni, io sono qui. 349-238-6666, siete uno l'antistereotipo vivente. Sono di destra e ho preso la tessera del PSI. Sono un idraulico e non vado con le clienti. Sono un comico mastro larga da Zelig e Colorado. Ho 30 anni, una laurea in scienza della comunicazione, sono donna e faccio l'agricoltrice. Matteo, sono francese e non sono campanilista. Sono un commerciale ma odio fregare il prossimo. Qui gli stereotipi vanno quasi al di là dell'immaginario. Un po' come Soliman che mi scrive: sono egiziano e non faccio il pizzaiolo. Pronto Soliman? Pronto. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Senti, fa ridere il fatto che ormai lo stereotipo era quello del napoletano, invece adesso del pizzaiolo è l'egiziano, perché a Milano... appunto, sì, perché chiunque mi incontra dici: eh sì, io conosco un egiziano che è bravissimo a fare il pizzaiolo. Ormai gli egiziani sono famosi per quello in Italia. Tu che cosa fai invece, Soliman? Io faccio, lavoro nel campo petrolchimico, faccio collaudatore tecnico, una cosa in campo di ingegneria, totalmente diversa, vuol dire. Ma sei un ingegnere o sei un tecnico specializzato? Sì, sì, sì, specializzato, sì. Quindi avevi fatto una specializzazione in Egitto o poi l'hai... No, ho fatto Don Bosco in Egitto, che è un istituto italiano. Ah? Conoscevo già l'italiano, poi sono venuto qua per l'università e poi ho continuato a fare questo lavoro qui. Senti, ma invece magari ne conosci qualcuno, com'è che i pizzaioli, che gli egiziani sono così bravi a fare la pizza? Ah, io, il mio amico, proprio amicone dall'Egitto, fa il pizzaiolo, l'ha imparato qui, è venuto qui, l'ha imparato qui, è bravissimo, con non solo la mia opinione, ma l'opinione di tutti gli italiani, anche... No, ma quello ormai è lampante che gli egiziani sono i più bravi a fare la pizza, sì. Però ti domandavo se c'è un motivo, tipo c'è una tradizione di cucina particolare in Egitto oppure no, semplicemente funziona così. La pizza in Egitto è totalmente diversa dall'Italia, vuol dire che una cosa, la pizza in Egitto tipo Pizza Hut, quella alta. Sì, è proprio un'altra storia, sì, è proprio una storia, probabilmente una questione di comunità. Soliman, ti ringrazio molto, buona giornata. Grazie a te, ciao. Andiamo a Roma, però sempre con un altro straniero, con Elena o Elena, pronto? Buongiorno. Io sto bene, tu stai bene? Sì, sì, grazie. Brava, senti, quello che mi scrivevi fa veramente molto ridere, perché sono portoghese. Tanto. Sono portoghese e pago i biglietti del bus, pago le tasse e ogni balzello. Sì, pago persino il canone nel RAI, di cui non vuole pagare nessuno. Senti, Elena, come mai sei in Italia? Beh, indovina, per un motivo molto banale. L'amore. Esatto. No, cioè, sono sempre due motivi, o l'amore o il lavoro, non è che si sfugge. No, l'amore. E da quanto sei in Italia? Quasi 20 anni. Ah, ha voglia. Sì. Senti, ma è questa roba dei portoghesi che non pagano, sicuramente c'è una ragione, forse l'avevo già anche sentita ma non me la ricordo, da dove arriva questo luogo comune? La ragione è che ci fu qualche secolo fa, adesso sono molto emozionata, il governo, il re del Portogallo che mandò un elefante al Papa. Sì. Il Papa fu così commosso da questo dono che disse che a Roma i portoghesi non avrebbero pagato le trattorie, insomma, entrando nelle osterie. Questa è una versione. Poi ce n'è un'altra che dice che un ambasciatore del Portogallo a Roma aveva dava uno spettacolo al Teatro Argentina, sempre qui a Roma, sì. E i portoghesi non dovevano pagare l'ingresso. E ovviamente molti romani si erano intrappolati. Immagino. Senti, Elena, ma quindi questa cosa è solo in Italia che i portoghesi hanno questo stereotipo? Solo in Italia. Pensa che io sono di Porto e a Porto la gente è così diligente che non ci sono nemmeno i tornelli nella metropolitana, perché la gente paga. Vabbè, altri tassi di civiltà. Elena, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao, grazie. Rimaniamo, no, non rimaniamo a Roma, andiamo in provincia di Padova da Claudio. Pronto Claudio? Sì, pronto, ciao. Ciao, buongiorno. Senti, provincia di Padova dove? Selvazzano. Scusami? Vicino ai coliuganei. Ah, ok, perfetto. Tu sei un politico, sei un politico locale, no, giusto? Sono un amministratore, un consigliere comunale. Però sei onesto, scrivevi. Sono onesto, direi che sono un coglione. Tutti dicono che i politici guadagnano, gli amministratori guadagnano un sacco di soldi, basta leggere i giornali, no? Sì. Il CUD mio dell'anno scorso è stato 137 euro, passo 120 ore al mese in comune. Scusami, 137 euro all'anno, per allora, CUD intendi? Il CUD è la denuncia che mi ha fatto il comune. Ma perdona, ma scusa, quindi, ma perché cos'è? Un obolo? È un gettone? Sì, no, come... è una vergogna prenderlo, no, perché è una vergogna... ora che lo registro e che pago il commercialista non rimane niente, ma sì. È più vergogna chi me lo va, secondo Me. Che consigliere... Consigliere comunale di che cosa? Che tipo di consigliere sei? Amministrativo? No, consigliere comunale. Ok, comune, generico. Di 20.000 abitanti, quindi... E qual è il tuo lavoro però, Claudio? Faccio il rappresentante. Sei rappresentante, quindi tiri avanti con quello. E faccio beneficenza per i cittadini. Cioè, ci credo a quello che faccio, ma capisci? Mi dà fastidio il fatto che tutti dicono che noi rubiamo e dopo c'è gente come me che fa volontariato puro. Grande, grande antistereotipo. Claudio, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Rimaniamo sempre in quelle zone, parliamo ancora di politica. Fabio da Verona, sono leghista, faccio volontariato e lavoro con gli immigrati. Pronto, Fabio? Ciao Matteo, ciao. Sono Fabio. Sei Fabio, senti Fabio, sì. Allora, tu sei da quanto sei leghista, Fabio? Beh, guarda, io ormai sono leghista dalle prime volte, quando ancora c'era la Lega Veneto. Quindi da prima che nascesse la Lega Nord, praticamente. Esatto, prima che ci unissimo a fare la Lega Nord. Senti, e tu fai volontariato, e cosa c'entrano però gli immigrati o gli stranieri? Faccio aiuto qui la chiesa che ho qui a fianco. E gli do un po' di borse di cibo e li vedo a contatto, ci sono a contatto tutti i giorni con loro. Senti, ma non ti è mai capitato di denunciare un clandestino, quindi? No. Ma perché non ti va di farlo o semplicemente perché non... Perché non mi è mai successo la situazione di sapere con certezza che fosse un clandestino o meno. Ma l'avresti fatto altrimenti? C'è una legge che ti dice che non è giusto che siano liberi di entrare in Italia a loro piacere. No, questo lo so, certo, la legge la so. Sto chiedendo a te se l'avresti fatto oppure no. A livello umano, dici, quindi. Non lo so, a livello se l'avresti fatto oppure no, tutto qui. È una bella domanda, dovrebbe sapere la situazione della persona. Va bene. Sì. Fabio, ti ringrazio moltissimo, buona giornata. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciro da Roma, sono militare ma sono di sinistra. Pronto, Ciro? Ciao Matteo. Ciao, ma questa cosa però credo che sia più comune di quanto si pensi, o sbaglio? Lo credo anch'io, anche se credo sia altrettanto difficile che qualcuno l'ammetta. Almeno per l'esperienza che ho, lo stereotipo è quello lì, diciamo, che deriva da un retaggio storico. Certo. Però in realtà, almeno credo per me, così come per tante altre persone che non si confessano, essere un militare significa servire lo Stato, e se servire lo Stato significa servire tutti noi, significa anche servire gli ultimi. Ciro. E se la cosa più semplice e più di sinistra è quella di servire gli ultimi, ecco, quindi... Ciro, credo di non avere mai avuto una telefonata più chiara della tua, ti ringrazio molto. Grazie. Ciao, grazie. E adesso andiamo e chiudiamo con lo stereotipo degli stereotipi, la casalinga di Voghera. Casalinga è un'espressione molto comune nel lessico giornalistico, un'espressione con cui si intende rappresentare quella fascia della popolazione italiana piccolo borghese dal basso livello di istruzione, che possiede un lavoro generalmente molto semplice e umile. Questo strato sociale è tuttavia rispettabile per il suo senso pratico di stampo tradizionale di cui è portatore. L'espressione è solo di rado utilizzata in senso dispregiativo. Ad esempio, il dizionario della memoria collettiva riferisce l'espressione a chi si abbandona passivamente alla fruizione televisiva. Altre volte, invece, è usata come sinonimo di saggezza popolare. Al maschile si potrebbe tradurre con il signor Rossi. Nel 1966 il servizio opinioni della RAI avviò un'inchiesta volta ad accertare quante, tra le parole usate nei resoconti di attualità politica, fossero pienamente comprensibili dall'italiano medio. Vennero svolte interviste in varie regioni d'Italia. Gli intervistati dovevano dare la definizione di termini come scrutinio o come leader. Il gruppo che fra quelli interrogati per l'inchiesta dimostrò il tasso di comprensione meno elevato era composto da casalinghe di Voghera. Io sono un pastore abruzzese. Piacere, casalinga di Treviso. Bracciante lucano. Grazie a Fabio Rudi Cantadori, grazie a Viola Bottoni, a Tiziano Bonini e a Stefano D'Andrea. Ringrazio anche Claudio che mi ha detto: quantomeno la tua ricerca di Samir non è stato il punto più basso della tua serata ieri sera. No, non è stato il punto più basso della mia serata. Tra gli ultimi messaggi che sono arrivati, tra gli ultimi stereotipi: sono donna e vado a tartufi, sono direttore d'orchestra e faccio l'amministratore di condominio, sono vedova da 2 anni e salto da un torneo di burraco all'altro, e per chiudere sono lesbica e sto per avere un figlio, sono napoletano e faccio la raccolta differenziata. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?